in carcere con una condanna definitiva all'ergastolo, quindi il fine pena mai, la peggiore punizione che ci possa essere in Italia. Una persona che entra in un carcere con la consapevolezza di non aver fatto nulla, come fa a contenere la rabbia che prova dentro? Non rischia di impazzire? Come dire, io ho accettato quella sentenza, a malincuore l'ho accettata, in quanto io, quando è arrivata la pena definitiva, avevo la famiglia vicino, c'era un figliolo piccolo di 2 anni e mezzo, anche se andavo in carcere il mio pensiero era quello di poter rivedere sempre, che mi venivano a trovare, ecco, c'era il discorso dei colloqui. L'hanno salvata i colloqui con la sua famiglia, praticamente? Mi hanno salvato i colloqui a me, perché io i primi 2 o 3 anni qualche volta volevo farla anche finita, perché vedevo la porta chiusa davanti a me, non la vedevo aperta. Poi, fortunatamente, la famiglia ho scoperto l'ordinamento penitenziario, a me mi ha salvato anche l'ordinamento penitenziario. In che senso? Questa storia prevedeva che anche per gli ergastolani ci possa essere uno spiraglio di vita, di futuro, prima con i permessi, poi con il lavoro, e io mi sono aggrappato a quello. Quindi lei si è attaccato a tutte, diciamo, le possibilità che l'ordinamento penitenziario le offriva. Certo. Tutto questo finché a un certo punto il quadro cambia, nel momento certo in cui punto... un ex ufficiale dei carabinieri, Renato Olino, nel 2007 racconta che quella confessione in realtà era stato il frutto, appunto, di ore di torture. Lei l'ha mai poi reincontrato, questo carabiniere? L'ho incontrato a processo, quando è venuto a fare la sua dichiarazione lì nella corte d'appello, che il verbale è stato fatto con le torture, che sono stato picchiato. Lui è venuto a dire le stesse cose che io avevo detto 30 anni fa. Era stato un rimorso di coscienza a portarlo a parlare? So. Almeno, come ha detto lì in tribunale, lui ci aveva provato a raccontarla questa storia ai suoi superiori, però i superiori gli dicevano che di lasciar perdere. Poi nel 90 ne ha riparlato anche con un giornalista, e anche questo giornalista gli avrebbe detto di lasciar perdere. Lei ora in qualche modo deve la sua ritrovata libertà anche alle dichiarazioni di questo carabiniere? Certamente, io in un'occasione l'ho ringraziato del coraggio che ha avuto. Non lo odio, per carità, io non odio nessuno. Sono state le sue dichiarazioni che hanno portato alla revisione del processo? Le sue dichiarazioni hanno messo in discussione nella sentenza di condanna. Abbiamo fatto una richiesta di revisione, la prima ce l'hanno rigettata, abbiamo fatto ricorso e la Cassazione ha detto che mi dovevano fare un processo, ecco. Quando ha saputo che c'erano queste dichiarazioni nuove di questo carabiniere, che cosa ha pensato? È stata come una sorpresa insperata? Prima è stato intervistato da un giornalista siciliano di giù di Trapani, poi ho saputo che è stato interrogato dalla Procura della Repubblica. È stato di fatto questo racconto che Olino, l'ex carabiniere, aveva affidato prima a un giornalista, poi appunto a verbale ai magistrati a far riaprire il suo caso. Quindi poi il processo di revisione e per lei quindi poi finalmente quelle parole tanto attese, che sono state l'assoluzione. Li attendevo da 36 anni, perché il mio calvario, diciamo, inizia il 13 febbraio del 76, finisce il 13 febbraio del 2012, 36 anni esatti, precisi. Esattamente 36 anni dopo, un periodo infinito in cui è cambiato di tutto. Avevo perso la cognizione dei soldi. In un'occasione sono andato in un bar e ho pagato 2 caffè con 10.000 lire. C'erano le lire quando la prima volta sono uscito io in permesso. Più macchine, più confusione. Però ecco, io grazie al lavoro l'ho notato un po' meno. Il suo rammarico principale è aver passato questi 22 anni in carcere che le hanno impedito di veder crescere suo figlio. Non aver portato, non so come fanno tutti i padri, il proprio figlio il primo giorno a scuola. Cercherò di rifarmi con il figliolo di mio figlio, magari, vediamo se ce la faccio. Con i nipotini. Signor Gulotta, ovviamente avete chiesto un risarcimento, ma nessuna cifra potrà mai risarcirla degli anni passati in carcere da innocente. Lei lo ha avuto nel frattempo? Ancora non ho avuto nulla. Io per ora mangio pane e cipolla, perché non ho possibilità di comprare nulla, perché appunto è fatico andare avanti. 14 mesi dopo la sua assoluzione e quindi dopo la sua immediata richiesta di risarcimento, ancora non avete avuto alcuna risposta? No, no, no. indicazione dei tempi, come mi dicono gli avvocati, dovrebbero essere veloci, come mi dicono. Con uno Stato che è così pesantemente colpevole e in debito nei suoi confronti di averle tolto ingiustamente 20 anni della sua vita, almeno dovrebbe essere veloce nel darle quel risarcimento che le permetta ora di poter andare avanti con una maggiore serenità. Io spero che quanto prima, i tempi che mi dicono gli avvocati potrebbero essere da qui a 3 mesi, ecco. La sua storia è una storia terribile ed è una storia di terribile mala giustizia. Quella stessa giustizia che però, va anche detto, ha poi permesso, sia pur 22 anni dopo, a lei di veder riaperto il suo processo e di avere la sua giusta assoluzione. Secondo lei le carceri italiane custodiscono anche gente innocente? Purtroppo devo dire sì, ci sono alcuni che proprio sono come me, penso di sì, che qualcuno me lo sono trovato davanti. Quando gli inquirenti, diciamo, portano le prove, che vengano controllate bene. Io non do la colpa ai magistrati, per carità, io non voglio accusare nessuno. Lei dice: io voglio che la mia testimonianza faccia capire che i magistrati hanno in mano la vita delle persone. La vita delle persone, sì. Che effetto le fa passare davanti a quella caserma? E ora la caserma non c'è più, c'è un obelisco dedicato ai due poveri carabinieri, a Puzza e Faccetta. Io quando passo, sinceramente, ho fede in Dio, mi faccio la croce e vado avanti. Non si è mai scoperto chi ha ammazzato quei due carabinieri? No, no, un mio pensiero è quello che dopo 36-37 anni passa, non credo che alla fine si troveranno i veri colpevoli. Lo sanno eventualmente quei vecchi carabinieri che all'epoca indagavano. Si hanno fatto di tutto per mettere in carcere 4 ragazzi, dovevano nascondere qualcosa che io non riesco a capire cosa, ma c'è qualcosa di strano in tutta questa storia. Cioè, i due carabinieri morti ci sono, voglio dire, qualcuno li ha uccisi. Non è stato mai trovato il responsabile, ed è ancora una tessera che manca in questa storia. E quando sono stato assolto ho detto: io ho avuto giustizia. A Puzza e Faccetta purtroppo non hanno avuto giustizia. Dall'arma dei carabinieri non è arrivato nemmeno uno, come di un segno di scuse. Le scuse le dovrebbero fare i familiari dei morti, che purtroppo gli hanno dato come falsi, hanno dato le prove. Falsi hanno dato i colpevoli. Anche a voi è capitato di conoscere persone ingiustamente accusate? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.